tutti i giovedì dalle 17 sugli 87.9 di Radio Andaluzzo. Todos los jueves a las 17, La Esquina del Sur, tutti frecuencia di Radio Onda Rosa. E allora cominciamo con un po' di tradizione oggi, andiamo indietro nel tempo e andiamo a Cuba, visto che qua la gente ci va veramente, noi ci andiamo col pensiero. In una delle voci storiche che hanno fatto la musica cubana, lui si chiama Benny Moré, a cui ancora si fanno i tributi perché è stato veramente una lezione di musica un po' per tutti e tutte coloro che poi si sono dedicati alla salsa piuttosto che allo scal, cha cha cha, insomma, un grande. Benny Moré, Bonito y Sabroso. Un brano molto tropical, perché infatti, insomma, l'ho ricicciato fuori per le amiche che in quel dell'isola del Pigneto mi hanno portato la spiaggia a Roma ieri. Ce la siamo divertita, Allora, noi rimaniamo a Cuba così per farci un bagno di romanticismo. Loro sono una delle coppie così più famose della musica cubana, soprattutto dopo che sono state riscoperte in quello che è stato quel bellissimo film Buena Vista Social Club, che insomma ci sarebbe da dire di perché sono stati riscoperti, di chi è che voleva comunque che tanta musica restasse così con una patina di nulla sopra, con una nebbia che li coprisse, perché poi insomma è dura dire che i cubani sono grossi in tante cose, da quella piccola isola. Voi andrete in vacanza? Chissà, chissà, chissà. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me responde, quizás, quizás, quizás. así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizá, quizá, quizá. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Un Omar Portuondo che ancora nei suoi concerti dall'alto della sua veneranda età ancora sgorga lacrime a pensare a tanti duetti con Ibrahim Ferrer. Rimaniamo a Cuba. Come detto, ci dirigiamo verso lo ska. Intanto dalle vacanze c'è qualcuna che è tornata, una botta, poi quando vai così lontano e torni è ancora peggio, ti rendi ancora più conto di tutte le pecche che ha il tuo paese, la tua città. Poi vabbè, se vai a Ostia, ormai che hai visto te, non voglio neanche sapere la depressione che ti prende. Sa di fatto che però noi siamo felici che sei tornata, cara la mia Cri. Possiamo sempre programmare una fuga. io spero che ci siate, perché qui c'è un silenzio che mette paura. Che dobbiamo fare? Los Santos no bebe jugar. Los Santos no bebe jugar. Ecco, va meglio, eh? Anche se secondo me questi trillini vengono da Prima Porta, eh? Insomma, un pezzo questo che unisce un po' il reggae, la cumbia, e di solito quando ci stanno così questi mitici mischioni, le mani in pasta, ce l'ha sempre un tale chiamato Quantic, che da bravo si diverte con la musica, gli riesce bene, bless, come dicono i reggettari. Noi continuiamo perché lui ha le mani in pasta veramente un po' dappertutto, quindi dal suo disco Flowering Inferno, un inferno che fiorisce, tipo una cosa del genere, ci spostiamo a un altro bellissimo album, Onda Tropica, un progetto oltre che un album. Tra un po' lasceremo anche tutta questa leggerezza, perché insomma da qualche giorno abbiamo di traverso una bruttissima storia di violenza, di transfobia, e ve tocca. Davanti alla stazione? Sì, davanti alla stazione, perché non si sa mai. Hai paura che ti mettono le mani addosso? Certo, sì, ho paura. È capitato a volte? Sì, è capitato. Ti sei difesa in quel caso? Dopo che mamma ha fatto il si è messo la mano. Penso poi che ti ho messo una difesa, io solo con calcio alle palle, no? Allora, così mi può difendere, no? Alla fine è scappato. Ho cominciato a stirare come una pasta e quello, alla fine è scappato quel stronzo. Senti, dove mangi durante la giornata? A colloquio. Alla mensa della carica? Sì. Non lavori? Non lavoro, ma posso lavorare. Mi prendo pensione e non faccio niente. Lavori? Me ne ruba il passaporto e il telefonino, me ne ruba tutto. Ti hanno rubato tutto? Che stronzo. Tu hai la mano, insomma, e la gamba che non la muovi bene. La posso muovere? Beh, non la puoi muovere. Ma sei perché hai avuto un incidente o? Sei stata sette mesi in coma. Ma qui in Italia? Sì, qui in Italia. Ma perché ti hanno aggredito? Mi hanno aggredito, con un stronzo. E ti hanno aggredito qui a Termini? No, dove si chiama la cagnola? Pietecca San Giustano. A Ostia. Sì, a Ostia. E quindi ti hanno ridotto così? Mi hanno rotto così, quello sono sbagliato una via. Ma l'hai denunciati? No, sì, quello scappa, no, non lo so più. Capito. Senti, come si vive per strada? È male, malissimo. Male? Molto male. E tu cosa vorresti per il tuo futuro? Ah, il mio futuro vuoi avere, se trovarmi un ragazzo che c'ha i soldi che mi lasci questa vita così brutta. Eh sì, questa non era la voce della trans di Termi, quella che era un po' per tutti, era la voce di Andrea di 28 anni che veniva dalla Colombia. Sì, è vero, aveva aperto il suo percorso, aveva liberato la sua vita, probabilmente perché in Colombia, paese di cui in questa trasmissione si parla spesso, non si può fare, perché è un paese da questo punto di vista chissà addirittura forse peggiore del nostro, e quindi non ci si può permettere di liberare la propria identità sessuale, la propria scelta. E quindi in tante vengono qua pensando che chissà qua veramente c'è la libertà anche di essere liberamente trans, e invece questo è un altro paese molto transfobico. Del resto è un paese che ha un numero pari quasi a quello dell'Ecuador di donne uccise per femminicidio, e sicuramente è un paese assolutamente schiavo delle politiche vaticane, e se non fosse per questo comunque sicuramente è un paese ancora molto omofobo, è un paese ancora transfobico, un paese misogino, insomma queste colpe indubbiamente le ha tutte. Io ho voluto mandare questo pezzo di intervista perché quando l'ho vista mi sono venuti i brividi. Questa intervista è stata fatta Andrea una settimana prima della sua morte, lo sapete, la settimana scorsa è stata trovata massacrata di botte lungo il binario 10 della stazione Termini, quella che era la sua casa. L'avete sentito nell'intervista? Lei diceva che dormiva davanti alla stazione Termini. C'è più luce, casomai ogni tanto chissà qualche poliziotto, uno con quello che ti può succedere si sente un po' meno insicuro, invece probabilmente niente di questo è bastato. E quindi mi viene da riflettere, mi viene da pensare, la rabbia, i pensieri, insomma, io poi ecco sono fumina, quindi spesso perdo il controllo, insomma chi mi segue lo sa, e mi veniva da pensare che chi deve trovare un posto nel mondo per queste persone, se non è l'Italia, se non è la Colombia. Voi conoscete un posto dove sarebbero veramente libere? E allora forse tocca a noi fare anche questo, determinare anche gli spazi per queste persone, visto che se non c'è per loro forse un giorno non c'è neanche per noi, no? Lo diciamo per tante altre differenze, forse questo vale esattamente anche per loro, in un paese dove veramente anche da morta la trans, che non ha un nome perché la trans viene privata di tutta la sua identità, così come avete sentito nell'intervista, di notte l'hanno picchiata per privarla del suo portafoglio, dei suoi documenti, del suo passaporto, un passaporto che chissà gli avrebbe permesso di evitare casomai di finire in un CIE, di non fare una vita da braccata, beh, di trovare un lavoro. Sono poche le trans che conoscete che lavorano, giusto? Eh sì, perché a differenza di quello che ci fanno chiedere, di quelle che ci fanno credere, difficilmente una trans sceglie per piacere il marciapiede, no? Allora diciamo che abbiamo tutti un'intelligenza per arrivare a questo. Dobbiamo riflettere dopo questa intervista, perché insomma è un po' una condanna che gli è stata data, una tacita condanna, a parte il fatto che comunque diciamo che il sorriso che ha è abbastanza disarmante in questa intervista, che si trova facilmente nella rete, e che è un sorriso veramente disarmante, perché mentre la intervista, nonostante lei elenchi tutte le sfighe della sua vita, sorride molto più probabilmente di tante e tanti altri, no? E allora, insomma, io ve l'ho voluto proporre perché credo che questa radio sia fatta anche per dare spazio a queste cose. Credo che questa intervista debba farci riflettere a tutti. Così casomai domani iniziamo dicendo che hanno ammazzato Andrea, la colombiana di 28 anni, al binario numero 10 di Termini, e no, la trans di Termini. Intelectuales, pajazos mentales, conocimientos parciales de nuestras diversidades. Déjate ya de prejuicios, actívate sensitivo. Dentro, muy dentro, la esencia con sentido. Control de la conducta a través de la moral. Discursos religiosos que controlan la verdad. Son incatalogables nuestros asuntos vitales. Sistema mega diverso, somos interculturales. Soy la negra, el indio, la puta, el enano, la fea, la ruda, el ciego, el mendigo, la bruja. Ya no somos tan pocos, bien abiertos los ojos, dando reflexiones, buscando soluciones, hablando la plena, vamos quitando penas, buscando la manera de boicotear al sistema. Las tradiciones que la diferencia condena, explota la naturaleza, todo a través de la fuerza. Ponte pilas, que nos quedan muy pocos. Pocos, pocos, pocos, pocos, pocos referentes quedan. Hay alternativas en sus huellas, biografías rotas, inconclusas. Inspiraciones de nuestras luchas son incatalogables, nuestros asuntos vitales. Sistema mega diverso, somos interculturales. Soy la negra, el indio, la puta, el enano, la fea, la ruda, el ciego, el mendigo, la bruja. Las otras realidades con heridas letales, culturas disfuncionales a las leyes capitales. Un solo fragmento de la historia que determina lo oficial, realidad parcial que manipula, te obliga a andar más ciego que una mula, obedeciendo leyes absurdas. Soy la que yo quiero, guía mis criterios, no me como el cuento, voy ligero. È nei nostri posti che dobbiamo cominciare, se no la differenza non la facciamo mai. Occupiamo, rivoluzioniamo, ma impariamo anche a usare il linguaggio, a non avere paura delle differenze, perché mi sa che lì c'è ancora tanto da lavorare. Son incatalogables nuestros asuntos vitales. Sistema mega diverso, somos interculturales. Soy la negra, el indio, la puta, el enano, la fea, la bruja. Somos tan pocos, bien abiertos los ojos, dando reflexiones, buscando soluciones, hablando la plena, vamos quitando penas, buscando la manera de boicotear al puto sistema. Calle Callejera ci stava tutta, una rivendicazione dopo l'altra, è stato veramente un mito poterla intervistare, quindi un saluto pure a Bia. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Para no matarla, cerré los ojos para no llorar. Temió ser débil y perdonarla y te permita que quien tú más quiera pague tus quereles, pague con mala traición. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Cuando se fue y aquella tranza de palo andino que en otro tiempo cortó pa' él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni esbozó un quejío ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. La con calma oggi, eh? Essendo io cantando a unas queriendo que me ames para mi soledad y hasta que yo insomma, io quando sento L'asta da sela mi emoziono sempre tanto, perché è una storia abbastanza triste la sua, anche quella di cantante, nonostante la sua intensissima voce, delle bellissime registrazioni. Por eso me quedo, questo è il brano che abbiamo ascoltato, e cerchiamo invece di tirarci un po' su, eh? Su, animo! allora un saluto a DJ Banana. Che non lo so se all'ascolto, visto che lui è antipatico, non ascolta mai questa radio. Poi la mia trasmissione se la segna proprio, questa non la devo sentire. 17:55 minuti, qui andremo avanti finché io non ho un calo glicemico. No, scherzi a parte. Andremo avanti ancora un pochino, così per non lasciarvi in balia dell'automatico per troppo tempo. Radio che piano piano si avvicina verso così un po' di chiusura estiva, che di solito comprende tutta una serie di pulizie e smischiamenti vari. Anna Soli la Candela insieme a Cachafas, questa volta con Justiciera, e noi andiamo avanti con la scandalosa tripulación Estalla una guerra. Pasó y dejó atrás los recuerdos de un pasado que tanto tardó en llegar. El tiempo deja en su lugar a su pasado el tiempo, una eterna energía en movimiento que calma la sed de los sedientos, que junta la soledad de los desolados, que no queden tan solos aun estando acompañados. Que junta la soledad, que junta la soledad, que no queden tan solos, aun estando acompañados. Que da el poder al poderoso, que miente, que no organiza, quien reparte la justicia. Que da el poder al poderoso, que miente, que no organiza, quien reparte la justicia. Que junta la soledad de los desolados, que no queden tan solos aun estando acompañados. Quien junta la soledad, quien junta la soledad, que no queden tan solos aun estando acompañados. Música. a los vencidos, no creerse todas las historias. Se trata de no hacernos enemigos, ni perder tan fácil la memoria. De escuchar a la tierra, levantar la vista y rendirle homenaje. Se trata de darnos cuenta que no ser mejor persona cuando se viste de traje. El hombre, la tierra y la guerra. No cargues por la calle con el virus de tu viruela, no. El hombre, la tierra y la guerra. No cargues por la calle con el virus de tu viruela. Ve y junta la soledad de los desolados. Que no queden tan solos, aun estando acompañados. Ve y junta la soledad. Ve y junta la soledad. Que no queden tan solos, aun estando acompañados. No más palabras, no más pretextos. A despojarnos de nuestros escombros. No más ayer, no más antes. Siempre es ahora. Y que no te pase la vida mientras cuentas las horas. Que no te vivan, que es lo mismo que matarte. Ve y junta la soledad, ve y junta la soledad, ve y junta la soledad. Noi andiamo avanti, se ci riesco. Vi volevo proporre un brano che ieri mi è stato consigliato, infatti lo ringrazio molto. Loro sono i Molotov, un gruppo veramente enojadissimo, eh? Che non sopporta gli Stati Uniti, loro da bravi messicani, giustamente, gringos, Yankee go home. E allora questa è una mitica canzone in cui sentirete loro cantare con un accento un po' americano, perché appunto si intitola Frijolero, che è esattamente il modo in cui i simpaticissimi nordamericani chiamano i messicani. Frijolero da frijoles, che sono i fagioli, quindi i fagiolari. Dopodiché gli se mangiano tutto, visto che tanto li disprezzano. E quindi giustamente questa canzone racconta un po' gli stereotipi demenziali dei nordamericani rispetto ai messicani. Cristinina, quante volte ti è capitato? Dicevano, ah, no gringa, allora ti faccio lo sconto. E allora io vi faccio sentire quella che è la versione che non è stata censurata, così per chi ha particolare orecchio, perché chiaramente poveri Molotov, appena sono usciti, hanno ricevuto, da come leggevo da questa, insomma, dalla storia di questa canzone, hanno ricevuto delle minacce di censura pazzesche. Quindi, così, per essere passati in una serie di mezzi di comunicazione mainstream, hanno dovuto un po' camuffare, diciamo, giusto camuffare il testo della canzone, che invece finalmente si trova tutto con le lettere anche scritte, così lo potete vedere. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, porque inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking dealer. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, mister puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás diciendo good for nothing, wetback. Si tuvieras tú que empezar de cero, Now watch you look down the way your feet is planted. That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Invece si chiamano Frontline, Guerriglia Sonora, No Corruption, No Pollution. Ser que existen corporaciones para sentirse bien donde quedaron los valores olvidados en el ayer. Por eso te sentís más fuerte cada día, demostrando más y más una absurda rebeldía, consumiendo todo lo que deben todos consumir, no importando cuántos viven mal o empiezan a morir. Torniamo indubbiamente nei ranghi, invece torniamo proprio alla tradizione più pura, la canoa arancia. Lo sono il gruppo Nice dalla Colombia, un bel viaggio su questa canoa in un bellissimo fiume che potrebbe essere chissà il Magdalena. Un po' di pogo e un po' di cumbia, eh? Que tú me mandaste traer, ya viene rompiendo el agua. E allora godetevela questa cumbia, perché poi si va in vacanza. Thank you. Crimes Enforcement. ICE. El Hielo. Torniamo in Messico. Capo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar. No sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Se queda allá, eso pasa por salir a trabajar. Marta llegó de niña y sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá, pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto por esas calles. Se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Pasa por salir a trabajar. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. Anche questo brano da brividi per chi capisce la lingua, per chi invece non lo capisse basterebbe vedere in rete il video, perché è quasi una condanna del popolo messicano quella di parlare di immigrazione, non solo quella che, a cui si sentono obbligati per sopravvivere i messicani e passare la frontiera con quell'infame primo mondo, ma anche perché sono terra di immigrazione. Il Messico riceve tanti migranti dal Guatemala in giù, che chissà, piano piano cercano anche loro di passare quell'orrenda frontiera marcata da un ignobile muro. No One More, infatti, il video e la canzone narrano proprio, il titolo viene da ICE, che è, diciamo, la polizia migratoria messicana in collaborazione chiaramente con quella gringa, e infatti il video si chiama ICE El Hielo, che è il modo, appunto, significa ghiaccio in spagnolo, e il video appunto ritrae messicani in divisa che cacciano lavoratori messicani clandestini. Tutto il mondo è paese da questo punto di vista. Io direi che andiamo a mettere l'ultimo brano per questa estate di L'Esquina del Sol, che comunque riprenderà a fine agosto, ai primi di settembre, immancabile, alzo un po' il morale a tutte e tutti con l'Istituto Messicano del Sonido e poi i saluti. Istituto Messicano del Sonido. Yo no estaba, me contaron. Un po' la frase dell'omertoso classico. Io non c'ero, me l'hanno detto, buh. Ok, allora mi chiamano per dirmi che vogliono un altro po' di musica un po' più latin roccheggiante. E allora facciamo che io vado un po' al buio, ma ecco, penso di prenderci. Breve ma intensa, questo è l'intro di un bellissimo disco dei Attacco che si chiama appunto Deportado, quale... Anzi no, non vi metto l'intro, vi metto proprio il brano Attacco e poi andiamo a chiudere con la sigla. Eh sì, insomma, vi ho fatto riflettere parecchio con sto caldo, eh? Poi vi si surriscalda la testa, invece ce n'è bisogno, anche perché, insomma, questa radio andrà in vacanza, ma ormai è l'appuntamento della stagione che ricomincia, quello con Renoiz, di cui ormai sentite lo spottino. Un paso de moreno. Me han deportado. Me han deportado los tipos de la migra, bien feito me han echado. ¿Con qué cara vuelvo? ¿Con qué cara vuelvo si apenas mi familia me pagó el vuelo? Yo era el futuro, yo era el futuro. Para el viaje compré un traje nuevo, maleta de fútbol, zapatos lustrados y hasta fui un día al peluquero. Me han deportado y mi derecho de moverme en el mundo ha terminado. Un sello rojo en mi pasaporte y me lo ha quitado un policía. ¡Cabrón! A todos juntos nos han mezclado como en sus antiguos campos de concentración. Chinos, latinas, rumanos y cubanas, palestinos, peruanos y gitanas, bolivianas, argentinas, senegaleses, moros y más sudacas, tailandesas. Potosina y muchos iraquíes. Stolica Europy, 1999, mam 18 lat i robię to i owo. Przywraca lodów, sprzątaczka, kelnerka. Polka, obywatelka drugiej kategorii. Zatrudniają mnie w mgnieniu oka, zwłaszcza faceci. Szybko odchodzę, bo męczy mnie wieczna samoogrona. Jestem zmęczona, jestem zmęczona, jestem zmęczona, jestem zmęczona. Me han deportado. Me han humillado, a empujones me han metido a ese gran avión. Con la vergüenza y cabizbajo miro a la ventana mientras tomo una cerveza. Y en los controles de pasaportes todos me señalan como a un criminal. La última esperanza que en el aeropuerto alguien de mi familia hoy espere por mí. Lá na chegada é que as autoridades espanholas vão decidir quem fica ou quem vai ser deportado. sud Italia. Lungo la costa c'è una strada, 50 km. Morte, violenza, disperazione, prostituzione, spaccio di droga. Nel Casertano sono rimasti a terra 6 africani. La carneficina di cittadini africani. Scoppia l'inferno. Nessuno si salva da tanto inferno. Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro. Así que... E poi si perde la memoria di quello che è stato il tuo paese, la storia del tuo popolo, no? Di quanto inferno hanno fatto pure loro. E ci diventa così. Bah! E allora, voi lo sapete, ci sono 20 giorni di automatico in questa radio, dove intanto noi qua traccheggeremo per rendere migliori questo studio e la ripresa delle nostre trasmissioni. Ma c'è una serie di cose che io vi voglio dire, che dovete fare assolutamente mentre siete in vacanza: portare dietro tutto, tutti voi stessi e tutte voi stesse a 360 gradi. Non dimenticare le cose di cui abbiamo parlato oggi, l'immigrazione, Andrea, la trans di Termini, Andrea di 28 anni, colombiana, eh? E non ci dobbiamo dimenticare neanche tutte e tutti coloro che stanno così, a cui stanno facendo pagare la lotta, la resistenza, che è di tutte e tutti noi. Questo per dirvi che, insomma, salutandovi, voglio dire di non scordarvi di mandare una cartolina per ogni posto dove state, a un detenuto, a un detenuta, se non conoscete compagni che sono in carcere, oppure insomma di farlo ai nostri compagni. Talvolta quando si è fuori si sente come non so che scrivergli, qualsiasi cosa va bene, non so, mi sento male, io sto in vacanza, lui, lei sta dentro, no, invece va benissimo, non dobbiamo lasciarci prendere dal senso di colpa, perché è così, una boccata di ossigeno ogni cosa che mandiamo scritta, ogni cartolina, ogni disegno, insomma qualsiasi cosa che entri lì dentro. Chiaramente io lo dico perché, come sapete, Alberto il giovedì ci manca, è una cosa che non ci leva, c'è un buco enorme la sera del giovedì in questa radio, ma con lui è come lui, insomma, capoccione come era, ma giustamente, fossero mille capoccioni così, ci ricordava che non è lui ma sono tutte e tutti, perché lui è tutte e tutti. Quindi la cartolina, se non è per Alberto, è per Marina o insomma per chiunque altro, qualsiasi altra persona sia dietro le sbarre. Talvolta chissà anche se riuscite ad avere il nome di qualcuno straniero che probabilmente ha molta meno gente vicina, stando qui, di qualsiasi italiano. Comunque, qualsiasi cosa voi facciate, il disegno dei vostri nipoti, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente va bene per non farli sentire dimenticati e dimenticate in un posto infame studiato veramente a pennello. Io con questo chiudo la trasmissione di oggi alle 18:36 minuti, vi abbraccio fortissimo, sempre con un abbraccio particolare a tutte e tutti coloro che non possono godere della propria libertà. Io vi saluto e ci risentiamo prestissimo.